Ebbene sì, ancora non ci hanno cacciato. Anche oggi i fuori posto. I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio 24 e benvenuti ai Fuori Posto. Ciao Filippo. Ciao Umberto, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sai una cosa Umberto, io ieri sera, no, pensando un po' alla tua vicenda amorosa, quella famosa storia che purtroppo andrà a finire male. Caspita, oh, tutti i giorni tutta passioni, ma a me fai male, no? Tutti i giorni mi devi far partire il nostro momento fuori amore? Ebbene sì. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. Io, Filippo, quando ascolto questa canzone non posso far a meno di pensare a lei. Vedo una lacrima che ti sta spuntando sul viso. Pure più di una lacrima. Dicevo questa cosa, facevo una riflessione più in generale sull'amore, Umberto, e in particolare sui luoghi dell'amore, no? Ogni storia d'amore ha delle location, ha degli sfondi, ha dei set, ha quel ristorante dove sei andato per la prima volta, ha quel cinema dove avete visto quel film e dopo avete fatto l'amore tutta la notte e ti crea un ricordo bellissimo, quel parco pubblico dove hai fatto la passeggiata, quella via del centro con cui lei, in cui lei te la sei abbracciata e stretta tutta. Ecco, i luoghi dell'amore sono anche dei luoghi però pericolosi, perché quando ti lasci hai paura di ripercorrere, immagino. A me me lo dici. Io sai che ho pensato che alla fine ogni storia d'amore, no, può essere paragonata a un film, no? Al film della propria vita, no? E la cosa che mi ha colpito di più, e manco a farla apposta, io quando mi sono lasciato, quando lei mi ha detto basta è finita. Perché ricordiamolo, è lei che ti ha mollato, no? Eh sì, è lei. D'altronde come darle torto, no? Hai fatto bene, parliamoci chiaro. Allora, la cosa che ovviamente che mi è successa, e credo non solo a me, ma anche a chi come me è stato mollato o ha lasciato, perché no, è che nel momento in cui ti lasciano, tu cancelli tutti i luoghi in cui sei stato con lei. Cioè, personalmente, io tutti i ristoranti che frequentavo con lei, anzi ti dirò di più, io ho avuto difficoltà anche a riandare in un posto, che ne so, avevamo fatto un viaggio a New York bellissimo, mi è capitato di ritornarci per forza per lavoro a New York. Sì, ci sarebbe mancato anche altro che tu non saresti andato. Sì. Volevo sfilarmi all'ultimo, no? All'ultimo non volevo andare, no? Poi sono stato obbligato dal mio capo ad andarci. Mi pare giusto. Che cosa avresti usato come giustificazione? Non voglio tornare sul luogo del mio grande amore? Sì, infatti mi prendevano per matto. E mi è capitato di star male perché ripercorrevo alcune strade, alcuni luoghi. Certo. Central Park, no? Cioè, e comunque ti immagini che quei posti adesso continueranno a esistere, però non ci sarò più io con lei e quindi comunque provoca sofferenza. Ma c'è anche una paura di rincontrarla in quei luoghi, sapendo che non puoi averla perché non è più tua. Cioè, non ti nascondo che nella città dove lei vive io evito di andarci per paura di rincontrarla così per caso, per strada. Perché comunque se tiene una persona ti può ferire, no? Rivederla così all'improvviso, no? Anche perché la cosa più brutta sarebbe rivederla accanto a un altro. Cosa alquanto probabile, giustamente. Però vedo che la nostra mail e il nostro numero di WhatsApp sono impazziti anche oggi. Perché, anzi, ricordiamoli, no? Giusto, Filippo? Sì, fuori posto, @radio24.it per chi vuole scriverci le mail, la segreteria telefonica al 02-465-24-182 e chi volesse mandarci gli sms o WhatsApp al 349-23-86666. Poi, con Umberto, abbiamo anche il profilo Facebook. Eh sì, i fuori posto. No? Molto semplice come noi. Molto, molto originale il nostro profilo, sì, Facebook. Originaloni, come sempre. Ci scrive Greta, per esempio. Che dice? A me non me ne frega niente, continuo a andare nei ristoranti anche se non sto più con il mio ex storico. Greta, non siamo Greta, tutti uguali, no? Magari lei è più forte, riesce a resistere ai ricordi struggenti del passato, non è sensibile come il nostro Umberto. Sì, perché alla base c'è la sensibilità e il romanticismo. Umberto Alezio, un uomo sensibile e romantico. C'è Piero invece che dice: ti capisco, perché anche io ho fatto come te, no? Quasi quasi esco con Piero. C'è un amico. Piero, che fai stasera? Stai a Milano? Umberto è libero e potresti uscire, eh? Piero, sono qui, ti aspetto a Radio 24. Guarda, è tanto carino Umberto, te lo raccomando. Però, insomma, Filippo, adesso mettendo da parte il nostro momento fuori amore, no? E... che è sempre un momento molto duro, molto triste. È un momento... però vedo che ti fa divertire. Un pochino sì. Va bene, ma io lo metterei da parte per oggi, perché ho dato, no? Come si dice. Per oggi basta. E dai. Sai che farei? Passerei di palo in frasca, no? Mm-hmm. Perché dai fuori amore, no? Possiamo andare fuori posto, no? In questo caso parliamo del posto di lavoro. Che, giusto? Che è un posto molto importante. Ci sono quelli che per fortuna ce l'hanno, ci sono quelli che ancora lo cercano, questo posto di lavoro. Anche perché intorno al lavoro, no? Ruotano tantissime cose, no? L'amore, la vita privata, la famiglia, no? Avere un lavoro, soprattutto di questi tempi, è importantissimo, no? Certo, se non lavori, non ti sposi, non mangi, non fai l'amore e non hai figli, come fai? E pensa, gli italiani, no? Che hanno di base una grande inventiva, no? Senza arrivare a Zuckerberg, che si è inventato Facebook, no? E quindi ha trovato una collocazione, mi sa. Un anche... posticino l'ha trovato lui. Sì, mi sa anche buono, no? Mi sa anche redditizio. Beh, a fine mese ci arriva, mi sa. Però senza arrivare a Mark Zuckerberg, no? Noi, che siamo i fuori posto, chi ci abbiamo noi al posto noi di Zuckerberg? Abbiamo Loris, che si è inventato a suo modo il posto di lavoro e quindi un posto nella vita, aprendo un'agenzia di turismo odontoiatrico. Ah, interessante, ma ce l'abbiamo con noi Loris? Sì. Ciao Loris! Ciao, buongiorno a voi. Allora, Loris praticamente porta le persone in giro a rifarsi i denti, rifarsi i denti, e in più vedono anche la città, è giusto Loris? Esatto, esatto. La partenza è praticamente da Bologna, ma prendiamo un po' da tutta Italia, esatto. Allora, tu praticamente, come ti è venuta st'idea di fare il turismo odontoiatrico? Ma circa 3 anni e mezzo fa con mio fratello abbiamo così improvvisato questa cosa qui, e con un iter di ricerca di cliniche, un iter di fare un po' i finti clienti, abbiamo trovato una clinica che ci piacesse con degli ottimi prezzi, ma soprattutto la buona qualità. E da lì, un po' timorosi e tanta paura, abbiamo provato a iniziare a fare questa cosa qui. Dopodiché però mio fratello mi ha un po' abbandonato, ma io ci ho creduto e ancora oggi continuo insieme a mia moglie, che collabora con me adesso, a fare questa attività. E tutti i miei clienti sono davvero tutti contenti, ma soprattutto, come dicevate prima, mi dà da vivere, mi dà da poter arrivare a fine mese, cosa che prima... E questa è la cosa più importante. Certo. Loris, ci spieghi una cosa, perché molte persone si rivolgono a te per andarsi a fare i denti fuori Italia, fuori confine? Allora, praticamente in Italia farsi i denti è diventato un lusso, e avere i denti non deve essere un lusso, deve essere un diritto, e poter sorridere, poter mangiare, poter avere anche il coraggio di uscire per strada e poter sorridere, parlare con la gente, penso che sia un diritto. Vedo che tutti i miei clienti che mi chiamano è perché hanno dei problemi economici, perché in Italia hanno dei preventivi a volte di 15, 20, 30, 50 mila euro, e noi con circa il 70% in meno riescono a fare lavoro, però con il miglior prodotto, con il miglior prodotto però qualità. La domanda che ti voglio fare io, no? E sono sicuro che vorrebbero farti anche chi ci ascolta da casa o da sotto l'ombrellone, no? Certo. È la qualità, l'igiene che trovano nei laboratori italiani, no? Negli studi italiani, si trova anche all'estero? No, allora è l'incontrario. Cioè, quello che tu trovi nella mia clinica in Croazia non sempre la trovi qui in Italia. Addirittura lì è meglio? È molto meglio, sì. Cioè, quindi Croazia batte Italia 1-0? No, secondo me anche 7-1. Addirittura? Ascolta, ascolta, ma poi una volta che si va lì in Croazia e uno si fa i denti, ma... cosa si fa di altro? Quanti giorni di solito un cliente soggiorna lì in Croazia? Che fa delle belle? Allora, noi per esempio non facciamo soggiornare quasi mai, perché abbiamo optato un piccolo tour dove si parte la mattina da Bologna e si ritorna la sera stessa da Bologna. Da mattina a sera. Pochissime volte si pernotta là, si fa i lavori in 48 ore, che si chiama carico immediato. Cioè, quindi tu parti sdentato, no? Esatto. E torni con un sorriso da beautiful. No, più che altro io parto gli altri senza denti e li porto con un sorriso bellissimo. E con il portafoglio anche un po' più pieno, no? Sì. Diciamo con un portafoglio veramente più pieno, ma soprattutto non importa risparmiare, basta. la vera cosa importante è risparmiare, avere la qualità. Ecco, a proposito di risparmio, ci fai un esempio di differenza di preventivo tra un intervento fatto in Italia e un intervento fatto in Croazia? Guarda, proprio ieri ero in Croazia, un ragazzo di Bari aveva 8.000 euro per rifare delle 12 corone, noi con 3.500 euro gli abbiamo fatto la stessa identica lavoro. Ma che è corona? Hai ragione, volgarmente dentro la capsula del dente, cioè ti limano il dente e ti mettono questa capsula in ceramica che va a sostituire il dente magari ammalorato, un po' messo male, e diventa un dente nuovo. Ma Loris, tu sei un dentista? Assolutamente no. Che lavoro facevi prima di fare questo? Ex muratore. Avevo una piccola impresa io. Muratore che si occupa di odontoiatria adesso. Dalle cazzuole ai denti, insomma. Ma c'è da fidarsi, Loris? E di me io viaggio e basta. Di loro devo dire la verità che sono veramente bravi. Su oltre 400 clienti io non ho un problema, quindi la mia percentuale è veramente altissima. Tu da chi guadagni? Tu da chi prendi i soldi? Chi te la dà la percentuale? No, a me non dà la percentuale. Io prendo i soldi del viaggio e basta. Ho una mia ditta dove io praticamente la clinica dove li porti non ti dà una piccola stecca, di la verità. Mi fa dei favori, cioè nel senso che magari la mia famiglia o me, che ho per esempio da fare dei lavori, mia moglie è andata là a fare dei lavori dove quindi chiedevano 2.400 euro, me l'ha fatto gratis. Ci scrive Paolo, sì. Sono un dentista da tanti anni e quello che sta dicendo Loris sono tutte cazzate, perché in Croazia la situazione igienica è pessima, quindi allora, diffidate. Rispondiamo a Paolo? Io capisco, Paolo, che sicuramente posso portarti via del lavoro, e questo non credo, perché il lavoro qui c'è per tutti, per chi ha voglia di lavorare. Loris contro Paolo, una bella sfida. Nel senso che la qualità, che oltre 400 persone in circa 3 anni e mezzo, io ho visto tra Bologna e provincia, ma adesso lavoro anche con tutta Italia, tutti mi dicono che bella igiene che c'è qui, tutta roba di qualità. Senti, quindi... in media, visto che noi siamo un programma che fa anche servizio pubblico, no? Giusto, Filippo? Certo. Beh, in questo caso veramente servizio pubblico, e chi vuole risparmiare può andare in Croazia e rifarsi i denti, a quanto pare. Ecco, perché ovviamente, come scrive Paolo, ma ci scrivono anche altri... Dovrei chiedere a Paolo quanto fa lui... Ho 12 corone. Mo' lo chiediamo. Sì, però una cosa, Loris, ma... 12 denti, che sono ste corone? Loris, ma non è che gli italiani, i dentisti italiani chiedono più soldi perché sono più bravi dei dentisti croati? Allora, posso dire che i dentisti croati si laureano a Padova, Trieste, Rijeka? Ah, quindi in Italia si laureano? Anche. Allora, Loris, visto che noi vogliamo fare servizio pubblico qui ai Fuori Posto, no? In media ti parlo, no? Che percentuale di risparmio abbiamo se veniamo in Croazia? Un risparmio reale dal 50-70%, poi ci aggiungi una detrazione fiscale del 19% nel 7,30 e nel 7,40 come detrazione fiscale medica. Quindi, perché noi facciamo fattura. Senti, chi sono le persone che si rivolgono a te? Chi sono Attenzione, però, scusa se ti interrompo, Filippo, però lui ha detto noi facciamo fattura, gli altri non lo so. Come per dire che i dentisti italiani non emettono fattura? Non tutti, non voglio generalizzare, perché non bisogna fare mai di tutto un erbo un fascio, però su 400 clienti, che 300 mi dicono, io non ho fatto mai fattura, mi fanno il preventivo su un foglio di carta a matita così non c'è l'intestazione, e quando poi ho dei problemi non posso neanche andare a contestare perché tanto non ho nulla, e poi furbacchioni noi dentisti italiani, purtroppo sono italiano tra virgolette, quindi mi identifico come italiano ma non come dentista. Diciamolo, tu non sei un dentista, facevi il muratore, adesso fai l'autista, mi pare, no? Bravo, esattamente. Cioè tu praticamente prendi le persone con un pulmino, le carichi, abbiamo 3 pulmini, due da 9 posti e uno da 7 posti, quindi tu le carichi sul pulmino e da Bologna le porti in Croazia, giusto? Da Bologna, comunque Imola, Bologna. Senti Loris, ti chiedevo prima, ma chi sono appunto queste persone che tu carichi e porti in Croazia? Guarda, che gente è? Il più vecchio è stato uno di Bologna che si chiama Sandro, 82 anni, lui dice si incomincia a invecchiare a 90. Il più giovane, mia figlia, 18 anni. Ah, quindi a tutte le età, insomma. E sono persone... Il ragazzo ieri che ha fatto 12 capsule, cioè nel senso che ha limato 12 denti messi male e gli esperto, hanno ricordato, tra virgolette, molto papà, sto parlando io mi sento che Loris potrebbe diventare dentista. Loris, ma Sai che secondo me tu potresti veramente aprire uno studio dentistico? Ma sai che avessi studiato prima avrei fatto un sacco di soldi? Vedi, vabbè, ma dai, non ti lamentare, mo ti sei inventato questo posto di lavoro fantastico. No, però vedo i nostri dentisti italiani che quando comunque per 12 corone ti chiedono la bellezza di 24-30 mila euro, assurdo. Ma quindi possiamo dire che i dentisti italiani sono un po' ladri? 12 corone, ridaglie queste corone per 12 denti. Denti, sì, perché è un po' troppo generico dire 12 denti, perché il dente può essere fatto in più cose. Loris diventa sempre più... Allora, diciamo che il risparmio è del 70%. Noi ovviamente, Filippo... Tra mica male, perché insomma si risparmia un sacco di soldi. Noi ovviamente non sappiamo, prendiamo le distanze, no? Siamo equidistanti, no? Sì. Noi prendiamo le distanze. Se volete provare, siete curiosi, vi fate caricare da Loris. C'è un piccolo problema, che se ti fanno un casino non puoi dire caspita, non mi piace. Cioè, comunque, visto che Filippo c'ha pure un'età ormai vicino ai gli anta, vicino. Se dovessi avere problemi, no? Te lo posso mandare una dentiera, insomma, dentiera lusso. Dentiera di lusso con un ottimo sconto, giusto? Assolutamente. Ma senti, gratis, con noi però, caro Filippo, c'è anche chi ha conosciuto Loris, l'ha provato. Ah, porca miseria, perfetto. Quindi sì, qualcuno che ci può testimoniare com'è andata questa esperienza. C'è Margherita, giusto? Giusto, giustissimo. Oh. Ciao a tutti. Ciao Margherita. Margherita, tu che lavoro fai? Impresa di pulizie. Quindi c'è uno stipendio non altissimo, immagino. No. E in Italia non ti potevi permettere... Io ci ho provato, in Italia non l'ho scartata, perché io ho provato ad andare a fare i miei preventivi, a chiedere, a vedere cosa costava il lavoro che dovevo fare. Ecco, tu che lavoro hai fatto in Croazia? Che cosa ti sei fatta curare? Guarda, tutti, li ho fatti fare tutti. Cioè tu non avevi denti? Erano tutti rovinati o rotti, era da rifare proprio tutto. Io ho rifatto in alto e in basso tutti. E in Italia quanto ti avevano chiesto per rifare i denti? 19.000 euro. Ah, 19.000 euro. E lì in Croazia quanto hai pagato? 6.000 euro. Aspetta, non risparmio. E hai avuto fastidi? Assolutamente, è già passato un anno. Sì, già, aiuto. Già un anno e assolutamente. Non ti cascato mai con dente? Non ho avuto neanche, come dicono, che ci sia sporco, di infezioni in bocca, assolutamente. Anzi, mangio le cicche, le caramelle, le mele. Senti, può sembrare una cazzata, no? Ma quando uno ha i denti a posto, no? Ti può cambiare in meglio la vita? Beh, io direi di sì. Ma qua tutti me l'hanno detto. E te come ti è cambiata in meglio la vita? Cosa ti è successo di bello dopo questo intervento? Beh, intanto non mi mettevo più la mano davanti quando parlavo. Ah, carina. Che carina questa cosa. E ora finalmente perché puoi parlare perché ti vergognavi di non avere dei denti a posto? Vedi. Quindi anche da ridere, cioè non abbassavo la testa quando ridevo, cioè. Beh, Margherita, intanto grazie, no? Noi diciamo ovviamente a tutti i dentisti italiani che questa è una possibilità. Possibile che sia tutt'oro ciò che luccica. Cioè, cerchiamo di capire qual è il punto di vista dei dentisti italiani. Eh sì, caro Filippo. Infatti quello che ha fatto Loris, che organizza viaggi odontoiatrici, no? Il cosiddetto turismo odontoiatrico, può essere apprezzato o meno, però secondo me, secondo noi è giusto chiederlo anche all'Associazione Nazionale Dentisti, no? È collegato con noi il dottor Mauro Rocchetti, che è il vicepresidente dell'ANDI. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Allora, grazie per essere ai Fuori Posto. Grazie a voi. Noi la chiamiamo perché abbiamo appena ascoltato la testimonianza di Loris, che è un ragazzo che organizza con la sua agenzia, che si chiama Dente Viaggi, questi viaggi dove prende delle persone, le prende proprio materialmente, preleva da, credo, Bologna, dalla provincia di Bologna, e le porta in Slovenia. E nel giro di pochi giorni, no, gli rimettono a posto tutti i denti, con sconti che arrivano fino al 70%. Noi ci siamo chiesti, è tutt'oro ciò che luccica o si potrebbe nascondere qualcosa dietro a questo turismo odontoiatrico? Ma diciamo, il fenomeno è abbastanza complesso, è un fenomeno non nuovo, perché già negli anni 80, quindi insomma molti anni fa, esistevano le famose protesi olandesi, no? Ai tempi, sì, che ricavano sugli autobus, questi signori di mezza età si portavano in Olanda, unendo vacanze a parte, diciamo, terapeutica, e tornavano questi malcapitati, sdentati, passi il termine, quindi senza denti, sì. con le protesi mobili, e poi dopo nascevano i guai. Quindi è un fenomeno ciclico che nei momenti in cui c'è un po' di crisi economica, un po' di crisi culturale, riaffiora. Questi attualmente sono fenomeni un pochino più complessi. Noi diciamo molta attenzione ai pazienti. Perché molta attenzione? Perché uno, partiamo dall'analisi globale, la nostra odontoiatria, e questo è riconosciuto da tutti, è al mondo fra le migliori. Anche tra le più care, però? No, sul discorso caro diciamo dovremmo fare un riferimento all'economia dei paesi di riferimento. Banalizzo il concetto chiaramente, se un operaio in Slovenia o in Romania prende al mese 800, 1000 euro, 700 euro, il costo della prestazione è rapportato a quel tipo di impatto economico, insomma. Quindi un costo è facilmente smontabile, insomma. I costi sono più o meno allineati alla media europea, perché appunto bisogna fare riferimento al grado di economicità del paese a cui ci si riferisce. E poi chiaro, lì fanno leva sulla scontistica, insomma, che se qua per dire una capsula costa X, la costa X meno una quota, chiaro, questo fa molta presa sul paziente. Dottore, però una cosa, come mai c'è questa differenza di prezzo? Che lei dice giustamente lì c'è un costo della vita più basso, ma si arriva addirittura a parità di prestazioni a uno sconto quasi del 77%. Vorrei verificare, questi tipi vanno verificati, insomma, ci sono molti modi di fare un preventivo. Poi se io spacchetto le varie voci nel preventivo, insomma, no, i preventivi andrebbero comparati voce per voce. Comunque, quindi... a parte il preventivo, no? Lei, sì. Noi ospitiamo lei proprio per, come dire, dare un contraltare, no? Certo. Mentre parlavamo con Loris, ci sono arrivati un sacco di messaggi dei nostri radioascoltatori dove dicevano ormai curarsi i denti in Italia è roba da ricchi. Questa cosa è corretta o no? Non più perché in Italia, diciamo, ormai le prestazioni come costo al paziente stanno scendendo, perché appunto il paziente ha difficoltà oggettiva economica, e quindi anche gli studi stanno capendo che non possono alzare i prezzi, ma debbono contenerli o in qualche maniera ridurli. Dottore, quanto vicepresidente dell'ANDI, quindi può fare un appello a tutti i dentisti italiani affinché abbassino un po' queste tariffe? Sono tanto bravi, ma che diventino anche un po' più economici. Questo è difficile da fare, perché ogni professionista determina il suo tariffario in base a tanti parametri che sono propri, insomma, e non ultimo la competenza professionale, perché insomma poi no, non è che andiamo a comprare una camicia. Quando i prezzi si possono abbassare, dai. Si acquista una prestazione sanitaria, medica, non si acquista una camicia, quindi insomma c'è il plus valore di chi segue la prestazione. Però lei ha ragione, però parlando proprio con una nostra ascoltatrice, sì, che Margherita, che guadagna mi pare tipo 900 euro al mese, diceva io o vado all'estero a curarmi i denti oppure in Italia non me li posso curare. Che gli rispondiamo a Margherita? Magari forse funzionare meglio il servizio pubblico in Italia, no? Vi do un dato, se voi lo conoscete, è importante. In Italia il 95% delle prestazioni odontoiatriche vengono rese in ambito libero professionale. Okay. Forse il pubblico dovrebbe farsi carico dell'assistenza alle popolazioni che hanno meno risorse economiche. Certo. Insomma, e questa potrebbe essere una soluzione. Dottore, grazie mille per essere stato con noi e grazie per averci dato il punto di vista dei dentisti italiani su questa vicenda. Un piacere, grazie a voi. Abbiamo ascoltato anche, come dire, il contraltare, no? Sì, ha detto la sua. Lui sostiene che la preparazione dei dentisti italiani è di livello così alto che giustifica anche i prezzi più alti. Sì, a onore del vero, Loris di Dent Viaggi diceva che molti dentisti sloveni o comunque croati che poi curano gli italiani si sono laureati in Italia e a quanto dice lui, insomma, le condizioni igienico-sanitarie e di qualità dei prodotti sono comunque altissime, certo, no? La cosa interessante che dice il dottore è che forse è il servizio pubblico nazionale che dovrebbe migliorare anche il servizio dentistico per i cittadini. Comunque, voi avete, come dire, l'imbarazzo della scelta. Speriamo che di non avere bisogno, no, Filippo? Oddio, Filippo, prima o poi ci toccherà un bel, non te credo. Devo dire che forse a te più prima che poi, perché insomma forse è una dentiera, visto l'età che avanza. Io sono giovanissimo, quale età che avanza? Noi che facciamo, Filippo? Ci ritroviamo tra poco? Ma mi sa che tu a me non mi trovi, perché questi attacchi sull'età non mi piacciono. Potresti andare via? Potrei andare via in questo momento. Potrei allora mettermi e lasciarti da solo, attenzione. Noi vi lasciamo solo per qualche istante e al rientro scoprirete se Filippo Roma sarà ancora qui con noi oppure sarà andato in Slovenia a farsi una dentiera col 70% di sconto. A quasi, tra poco. Quasi quasi vado. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere. E ascoltare. I fuori posto. Eh sì, bentornati ai fuori posto, sempre qui a Radio 24. Io sto ancora pensando al turismo odontoiatrico, caro Filippo. È un turismo che non conoscevo. Hai visto? Qualche giorno fa ci siamo occupati di quello tricologico, no? Mille forme di turismo che non ti aspetti. Hai visto? Ma continuerà nei prossimi giorni il nostro viaggio nelle varie forme di turismo. Ma c'è un ma, giusto? C'è un super ma. Qualche giorno fa abbiamo raccontato una storia, qualcuno ci ha chiesto ma è vera, ve la siete inventata? È tutto vero, no? La storia del truffatore mini dotato, no? Qual era sta storia, Filippo? La storia è di questo ragazzo che ha evidentemente dei problemi di lunghezza del pene, che un giorno decide di risolvere il suo problema rivolgendosi a un luminare del settore, che è il dottor Jamal Salih. Cosa accade? Concordano una cifra, un prezzo, 12.000 euro. Il dottore gli allunga il pene, l'operazione riesce perfettamente, ma purtroppo questo ragazzo scompare nel nulla e il povero dottor Jamal rimane senza il pagamento del suo onorario. Pare ancora con le bende, no, dell'operazione, scappato. Sì, una fuga rocambolesca, no? E a noi dispiace questa cosa, Umberto, no? Perché comunque Jamal, il dottor Jamal il suo lavoro l'ha fatto e questo tizio è scomparso del tutto. Eh sì, perché poi il dottore, insomma, per lui ovviamente è un lavoro, è fonte di guadagno e quindi se hai seguito un lavoro va pagato, giusto? Esatto. Allora, noi, caro Filippo, quando abbiamo ospitato il dottor Jamal Salih, no? Chirurgo e andrologo, in quell'occasione avevamo provato a contattare il Sola, no? E non ci eravamo riusciti, perché essendo un Sola aveva il telefonino spento, se non ricordo. Ma noi dei fuori posto non ci arrendiamo facilmente. Che te credi che noi ci arrendiamo? Ma innanzitutto abbiamo con noi nuovamente il dottor Jamal, giusto? Ci sei, dottore? Sì, eccomi. Bentornato ai fuori posto. Grazie anche a voi, grazie. Buon lavoro, buona giornata. Dottore, il suo paziente si è fatto vivo nel frattempo per il pagamento? No, non mi ha chiamato, no, assolutamente. Uh-huh. Non si è fatto vivo per nulla. Quindi ancora avanza i soldi, giusto? Assolutamente. Allora, se avanza le deve ancora pagare, non mi ha pagato. Allora, siccome questa storia è piaciuta tantissimo, no, ai nostri... Che bello. Sì. Chissà perché interessa questo argomento. Però spero che poi non tutti facciano la stessa cosa con me, poi, No. Diciamo, speriamo di no. Se volete allungarvi il pene, dovete pagare. Gratis, insomma, sapete dove dovete andare. No, avete uno sconto del 10%, no? Ma sì. Ah, no, allora, ma anche il 15%. Anche il 15%. Facciamo 20%, va bene? Va bene. Va bene. Allora, il 20%... Allora, chi la chiama? Chi viene dalla trasmissione vostra, io mi impegno a fare il 20% di sconto. Allora, chi va dal dottor Salih e dirà i fuori posto avrà diritto al 20% di sconto, assolutamente, giusto? Assolutamente, volentieri. Offerta imperdibile. Allora ascolti, dottore, noi vogliamo fare questo esperimento, no? L'altra volta abbiamo provato a chiamare il truffatore e il cellulare era spento. se è d'accordo e se ci può concedere due minuti, adesso noi proveremo a chiamarlo e sì. Lei rimanga in silenzio in linea, perché se questo tizio risponde la facciamo parlare, così chiederà spiegazioni e soprattutto gli chiederà i soldi. È d'accordo a fare questa cosa? Va bene, d'accordo, va bene. Anche perché noi qui a Fuori Posto non ci arrendiamo, no? Ma come dire, abbiamo il sentore che questa volta potrebbe essere la volta giusta, quindi da questo momento silenzio, e dalla regia chiedo di far partire la telefonata. Ok. E vediamo che succede. Ok, proviamo, dai. Pronto? Pronto? Chi è? Sono il dottor Sali. Sì, salve dottore. Come andiamo, caro? Non ci possiamo lamentare, lei? Bene, bene, è passato un po' di tempo. Non ho scritto, dottore, io entro quest'anno vi chiudo, non vi preoccupate. Avete visto la volontà che ragazzo sono, solo che è un buon difficoltà quest'anno. Caro mio, è passato troppo tempo. Ma io ve l'ho scritto, ve l'ho detto, non basta ottobre, novembre vi chiudo il conto, perché io lavoro ottobre, novembre, lo sai. L'hai già detto questo però discorso tante altre volte, caro mio. Eh sì, però io ve l'ho mandato due mesi fa, 500 euro. Stiamo parlando di tutta un'altra cifra, 500 euro che vuoi che facciano. Lo so, però in totale sono 7.000. Restano qualche spicciolo, resta ancora, non ti preoccupi dottore, io non mi sono dimenticato, a parte che devo fare ancora, mi deve tagliare il filetto. Ma un'altra cosa, un piccolo problema, sto andando in bagno che quando vado a fare pipì mi brucia, da che dipende dottore? Questo è un altro discorso, questo bisogna fare una visita, caro mio. Se non ti puoi rivolgere al tuo medico, se vuoi prendere un appuntamento e venire qui da me. Questo qua mi farebbe comodo, settimana prossima quando c'è lì? Io ci sono sempre, come sai. Tutti i giorni, anche sabato mattina, lo sai benissimo come lavoriamo, okay. No? Allora vogliamo fare sabato prossimo oppure sabato... Quando vuoi ti aspetto, però mi devi portare un po' di soldi, per favore. Dottore, le dico di sì, la prendo in giro, lo sai, io sono un ragazzo che voglio dire sì quando una cosa la posso fare, ma se le dico sì adesso le prendo solo in giro. Io ho dato la mia parola d'onore, la parola di uomo, io per massimo novembre le chiudo tutto il conto, senza problemi e senza nient'altro. Okay? Vabbè. Dottore? Sì? Dottor, sì, pronto, sono l'assistente del dottore. Questa situazione però sta degenerando, glielo dico francamente. Non ho capito, mi scusi? No, io sono un collaboratore del dottore, questa situazione sta degenerando, perché lei è rimasto contento dell'intervento? Non ho capito. Lei è rimasto contento dell'intervento? Non è che dobbiamo vedere ancora i risultati nostri, cioè io ancora non finisco tutto l'intervento, a parte mi devo tagliare ancora il filetto, mi deve dare ancora un apparecchio per il pene e mi deve ancora tagliare il filetto, noi l'intervento non l'abbiamo completato. Io dalla cartella clinica che ho qui davanti mi risulta tutto a posto, cioè l'allungamento è perfettamente riuscito. Mi perdoni e mi scusi, allora io ancora non ho fatto tutto quello che dovevo fare. Punto, io per novembre io tieno un titolo mio, ma io chiudo il conto, cioè ho dato 7.000 in contanti fino adesso. Allora adesso io le passo il ragioniere, no? Della clinica, e insomma parli con lui, perché questa situazione sta diventando incresciosa. Pronto? Sì? Devo annunciarle una cosa, visto che lei è recidivo e continua a non pagare, da ragioniere dello studio del dottor Sciamale devo annunciare che poiché non paga le verrà tagliato il pene, cioè le verranno tolti quei centimetri che le erano stati aggiunti. Allora lei può dire tutto quello che vuole, mi ascolti, io ho pagato fino adesso 7.000 euro. Se non hai soldi per pagare non c'è nessun problema. Allora mi ascolti solo, io le sto solo dicendo che io il dottor Sali le chiude il conto, come siamo rimasti due mesi fa, io ho mandato un bonifico che dice 400 totali sono 7.000 euro. Lui deve avere ancora 4.000 euro e non c'è nessun tipo di problema, sta facendo un teatro per inutile. È un teatro, ma qui i conti saltano, lei l'allungamento l'ha avuto, ma i soldi non ce l'ha dato. Allora scusami un attimo, ti voglio dire una cosa, scusami, è una persona che all'improvviso va in bassa fortuna e non può pagare più, si deve uccidere. Dottore, ma lei ha ricevuto fino adesso 7.000 euro? Totali 7.000 euro dato. Però visto che qui vediamo che lei sono mesi e mesi che non paga, le riportiamo via il centimetro. Non c'è nessun problema, lei torna presso la clinica del dottor Sali, le togliamo quei centimetri, torna come prima e siamo amici come prima, cioè non deve più dare soldi. Queste sono giacere inutili, io ho portato 7.000 euro, ma una piccola resta io lo chiudo il punto. Lei si sente fuori posto in questo momento, si sente fuori posto lei? No, io non mi sento fuori posto. Ci dica ancora una cosa, io da ragioniere allora, però sono curioso, ora che ce l'ha più lungo, come va con le donne, meglio? Eccola, ha buttato giù. Beh, niente. Ha buttato giù. Oh, sì. Niente. E niente, dottore, il suo paziente ha attaccato il telefono. Pare che non ci sia niente da fare per ora. No. Mi dispiace, magari tramite di voi si poteva recuperare qualcosa, ma... Ora noi, senza scendere troppo nello specifico, no? Pare che abbia qualche problemino, no? Però, insomma, lui diceva la pagherò perché comunque le ho dato una parte e quindi... Insomma, quant'è che avanza ancora? Beh, come minimo saranno rimasti almeno 5.000 euro. Ah, vedi? Vabbè, più o meno... Lui ha detto che la pagherà... Insomma, per essere sinceri, no, Filippo, io la vedo dura. La vedo un po' dura, però noi siamo sempre qua. È una storia che appassiona i nostri ascoltatori, quindi, dottor Jamal, noi non l'abbandoniamo. Rimaniamo sulle tracce del truffatore minidotato. Grazie tante. Grazie a lei, a presto. Anche voi, se lo localizzate, il truffatore minidotato, insomma, segnalatecelo. Ditecelo che noi, insomma, lo acchiappiamo. Cercheremo di compiere questa missione, no? Missione per ora impossibile, a quanto pare. Va bene, noi ci fermiamo solo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Ahimè, già so con chi. Oddio, con chi? Con chi? Ti dico solo una cosa. Nunzia. Oddio, sto già a pensiero. Ho capito chi è. Ci troviamo tra pochissimo, sempre qui ai Fuori Posto, Radio 24. Con Filippo Roma e Umberto Alezio. I Fuori Posto. Bentornati, questa è Radio 24, noi siamo i Fuori Posto. Fa caldo, la gente si abbronza, noi e te, Filippo, siamo sempre più pallidi. Sempre più pallidi, sempre più brutti dentro il nostro studio, però perlomeno c'è l'aria condizionata e ci consoliamo un po'. Sì. Sempre meglio che lavorare, no? Questo sempre. E a proposito di lavoro, caro Umberto, siamo giunti a un appuntamento che sta diventando sempre più importante. Siamo a Radio 24 e dobbiamo parlare anche noi di economia. E quindi in questo momento parte la rubrica Fuori Economia. No, di nuovo? Guarda, per me va bene tutto. L'importante è che non ci sia lui. Invece Umberto, ti devo dire che anche oggi c'è lui. Anche oggi c'è lui? Certo. No, guarda che l'ultima volta abbiamo rischiato l'arresto in diretta, cioè... È passata una guardia giurata fuori, io mi è venuto un sussulto perché ho detto ecco, è qui per noi, cioè... Ti assumi tu la responsabilità? Mi assumo io la responsabilità perché sta avendo un grande successo, perché tantissima gente sta scrivendo ai Fuori Posto @radio24.it e chiede proprio Coram Populi di Ciruzzo Tozzi. Ciruzzo Tozzi chi è? Ciruzzo Tozzi è un cantante neomelodico napoletano, no? Però prestato ai temi economici, no? Sì, perché ne ha una conoscenza molto approfondita e dispensa anche consigli ai nostri risparmiatori. Ciruzzo, ci sei? Sì, un attimo, scusa, ti ho dato i soldi, mi fa un piacere, me li devi dare un'altra volta. E io te l'ho prestato. Ma pure oggi. Senti, te li ho prestati questi soldi, me li devi dare, è inutile che perdiamo tempo. Se io presto un soldo a un amico, me li devi dare un'altra volta in via. Cioè, Ciruzzo, non mi sembra giusto. Vedi che brutte figure mi fai. Scusa, beh, che ti devo dire? Ciruzzo, siamo su Radio 24. Ma interessi, scusate ragazzi. Ciruzzo, non hai capito una cosa? Noi siamo su Radio 24, ci ascoltano milioni di persone, non ti puoi fare i cazzi tuoi davanti a tutti. Vabbè ragazzi, ma se voi mi chiamate nei momenti, diciamo, io che posso fare? Io ci ho prestato i soldi, questo me li vuole dare indietro. Ma dove stai? E sto per la strada e ho fatto un appuntamento su Tom Bottone, ristorante, un mio amico, ci ho prestato i soldi. Allora, Ciruzzo, noi dobbiamo, siamo qui, dobbiamo parlare di economia, sì, no? Lo so, appunto, di economia, scusi, ho prestato a questo qua di ristorante dei soldi, ristorante Barca Affondata. No, non dobbiamo parlare della tua economia. Ciruzzo, dobbiamo parlare dell'economia nazionale, europea, è un momento di grandi sconvolgimenti. Sei su una radio istituzionale, Radio 24. Non ci fa la brutta figura. Ma ho capito, ma l'economia del mondo parte dall'individuo. Addirittura l'economia da casa tua, Marco. Minchino, l'economia del mondo parte dall'individuo. Però guarda, questa è una frase da scrivere. No. Ciruzzo. Noi siamo al centro del mondo, parte l'uomo uno solo e poi diventa tutto allora, il cosimo. Sì. Guarda, io mi fermerei. Allora, dici il tuo prossimo impegno discografico dove... E io il prossimo momento il concerto lo devo fare proprio qua, al ristorante Barca Affondata. Dove? Vicino al Monte di Croce. Tutto fatturato, tutto ricevuto, tutto. No, non ci sono maglie, non c'è niente, fatture non ne fanno. No, ma non ne fanno fatture perché qua non. Maglie e cose, non ne vogliamo. Vabbè, cioè tu devi pagare le tasse. Cioè, se fai una prestazione, devi pagare le tasse. Dai, va. Cioè, partita IVA. IVA, libero professionista, contratto. Partita IVA, che ce ne frega? Rimane Ornella, Maria, ci stanno tante altre. Ma ce ne no, IVA, IVA. Cioè, Filippo, guarda che qui finisce male qui, Radio 24. Arriviamo qui e ci arrestano. Allora, no, io ritorniamo a fuori economia. Ritorniamo a fuori economia. Parliamo allora, di temi seri. Parliamo di, allora, parliamo di un tema, no? Molto serio, sì. No? Peraltro ce lo chiede. Ce lo chiede Nicoletta, no? Ci ha scritto, no? Sono molto. Ciao Nicoletta, un bacio forte forte a Nicoletta. Molte prende confidenza con le nostre ascoltatrici. Ma che ne sai se Nicoletta è fidanzata, è sposata? Non ti permette. Allora, un bacio sempre, pure che è fidanzato pure. Non ti allargare, mi raccomando. Capito? Vabbè. Ok, allora parliamo di spread. Lei dice: caro Ciruzzo, mi spieghi cos'è lo spread? Ma guarda, lo stanno, è un problema adesso, è un problema molto grande, perché questo spread per molta ci sta dando veramente molti problemi. Ma che cos'è? Che roba è? Lo spread, diciamo, è questo, diciamo, cocktail che abbiamo fatto ultimamente, fatto a base di cose un poco. Magari no, dai, no. Sì, non fare il cretino. Bar, dice, fatemi uno spread. E quello dice io devo. Allora, l'Italia. Ma come lo spread? Tutta l'Italia si fonda sul problema dello spread. Infatti, perché sta diventando un problema grandissimo, diciamo, questo spread. Ecco. I ragazzi non capiscono più niente e spendono un sacco di soldi da qua, spendono un sacco ma di no, soldi. Ma lo spread. Sai che l'Italia. L'Italia? È scossa dallo spread, è no? Cioè, qui se sale lo spread sono casini. Lo so, infatti quello se molta gente ha accusato Conte proprio che si è bevuto lo spread. Ma che c'entra Conte? Parla dell'Italia. Ormai è una cosa fatta a luglio, cioè vecchia, cioè perché c'entra ormai vecchia? Ragazzi, l'Italia non è mai vecchia. Ma, l'Italia scusa. È sempre dentro di noi. Ma non stiamo parlando dell'Italia la nazionale, stiamo parlando dell'Italia economia. Ciaccherini è vecchio, un po' vecchietto, però ma Ciaccherini. Stiamo a parlare di spread. Allora, lo spread. Spiega a Nicoletta e ad altri, no? Che cos'è lo spread e come si può fare per combatterlo? Allora, lo spread, come fare per combattere lo spread? È il nemico. La cosa importante per combattere la spread è un bicchiere di latte che ti intossica un poco. Ma che? Ma dai, scusa, guarda che qui finisce male. Magari la mattina prima. Mattina non prendere lo spread la mattina, stomaco vuoto, ma siete pazzi! No. Ciruzzo, però se vai avanti così, Ciruzzo, ti devo licenziare, ti sto difendendo da Umberto, ma se continui così ti devo licenziare. Nicoletta! Lascia stare ma questo ci sta invece di spiegarci cosa è lo spread ci sta a provare con Nicoletta. Posso invitare a Nicoletta a farci uno spread insieme? Non trascendere Ciruzzo. Ciruzzo, ma che è uno spread? No. Vieni qui Nicoletta che te lo faccio vedere. Non esagerare. Nicoletta è una delle nostre tanti radioascoltatrici. Vanno tutelate. Tu sai che sei su Radio 24, sei contento di essere su Radio 24? Mi ha menato questo fatto di Radio 24, ma voi 24 per forza. Per forza 24. Mi ricordate un poco, scusate. Tu 24, mamma mia, 24. È una radio nazionale. Lo so, ma 24, sempre 24, 24. Che cavolo, un po' di riposo. Pigliate uno spread, ragazzi. Ciruzzo, ascolta, Ciruzzo. Quello è lo spritz, non è lo spritz. Ecco, ascolta Ciro, ci scrive Aldo da Verona che è molto preoccupato del fatto che ha letto che la Federal Reserve non alzerà il tasso di sconto per tutto il 2016. Quello che ti chiede è: questa cosa può generare profitti o perdite? Scusa un pronto? Attimo, sei vivo? No, mi voglio consultare con il mio commercialista. Senti, allora, l'ho detto così, non hai capito niente neanche tu. Che commercialista sei? Ma sei un cretino, io ti faccio una domanda. Cioè, però, chi sta parlando? Però, il suo commercialista. Hai capito? Però, già è una notizia: Ciruzzo Tozzi ha un commercialista, giusto? Certo, è chiaro, è che io faccio le serate secondo te, come anche amici. Questo è di Verona. E paghi tutto? Posso dire una cosa, però, posso dire una cosa, ragazzi: questo qua che ha fatto la domanda è di Verona. Così c'ha scritto. Per carità, io non voglio fare il razzista, ci mancherebbe altro, siamo una radio nazionale. Non lo fare. Però siccome sono napoletano, posso fare uno comment a questo qua di Verona? Ma che ce l'hai con quelli di Verona? Scusa. No, per carità, mettiamo questi cose in mezzo, io ho amici per tutte parti, poi fai spettacolo pure, però appunto. Se posso evitare... Scusa, intanto perché... No, adesso ti fermo, no, perché sennò mi arrabbi. Intanto perché hai dato un bacio a Nicoletta e a questo no? certi cognomi c'hai i suoi gusti. Io non ho niente contro di voi, però io ho altri gusti. Ma che vuol dire? Cioè, ma questi ti fanno una domanda di economia, Ciruzzo. Comunque posso dire una cosa a Nicoletta? Dici. Ah, basta con sta Nicoletta. Vai, di sta cosa a Nicoletta, vai. Nicoletta, tu sì che sei quello che sei. Non come Giulietta di Verona, che Giulietta è una topa. Vabbè, lasciamo stare. No, tu, Nicoletta, che non sei di Verona, sei sicuramente e merita una Ciruzzo, risposta. A noi ci ascoltano pure da Verona. Se continui così, perderemo tutti gli ascoltatori del... Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Verona. Verona è una città bellissima, meravigliosa. Troglodita, questo troglodita napoletano. Ragazzi, vi aspetto a Verona, a tutti quelli che ascolto, io voglio tanto bene, venite a Napoli che vi aspetto con tanto amore e venite qua, io vi aspetto, venite. Cioè, questo pensa solo ai cazzetti suoi. Esatto, noi ti chiamiamo sempre. Con tanto amore perché vi voglio bene e forza Verona, va bene? Bravo, un'apertura. Per fortuna, che bello, un bel applauso, dai. Speriamo che il Verona torni in Serie A. Diciamo pure questa perfetto, cosa. Ma non però l'anno prossimo. Speriamo qualche anno almeno. Ma appena ricucito con Veronesi. Speriamo che torni in Serie A. Non sto dicendo niente, ragazzi, contro i veronesi. Non mi mettete le parole in bocca a me. Mm-hmm. Io sto dicendo va bene, però 5-6 anni in B, però che cavolo, uno può stare, no? Ho capito che alla fine noi vogliamo parlare di economia e questo parla della nazionale, di Conte, di calcio. Guarda, facciamo così. Investire? Prenditi una pausa. Quanto ti pare. Una pausetta. Mi raccomando, intanto qualsiasi prestazione tu faccia, paga le tasse e emetti fattura. Faccio da sempre. Ah, fai da sempre? Sì, pago sempre le tasse. Sento un po' di difficoltà nel dire pago. Anzi, fai una cosa, come disse un ex ministro, no? Sì. Un ex ministro, no? Padoa-Schioppa, disse una frase bellissima. Disse: pagare le tasse è una cosa bellissima. Tu te la senti di ripetere questa frase? Pagare le tasse è una cosa bellissima. Parola di Ciruzzo Tozzi. Sì, ma voi aggiunto anche un'altra cosa. Niente, non fate come me, ha detto lui. Pagare le tasse è una cosa bellissima, non fate come me. È irrecuperabile. Non c'è speranza con Ciruzzo. Non fate come me. Ciruzzo, proprio non ce la fa a dire sta frase. Non ce la fa. Io non lo so. Investite i vostri soldi con Ciruzzo. Allora, se sei d'accordo, il nostro impegno sarà nelle prossime puntate, no? Se mai ci sarà Ciruzzo. Se mai ci sarà, perché temo Ciruzzo di non riuscire più a difenderti. Qui mi sa che noi, te cacciano via. Noi ti obbligheremo, no? E ti convinceremo a dire che pagare le tasse è una cosa bellissima, va bene? Anzi, voi potete convincere quello che volete. Ma sai qual è? Che lui, Ciruzzo, è un economista liberale e quindi è contrario alle tasse. Lui vuole che la pressione fiscale sia abbattuta. Ecco perché dice questo. Anzi, io colgo l'occasione per chiederlo a chi ci sta ascoltando, no? Ma pagare le tasse è una cosa bellissima? Vi lascio con questo quesito, no? Salutiamo Ciruzzo, ci vediamo presto, anzi speriamo di no. E ti voglio bene. Ciao. Grazie, Ciruzzo, fammi stare tranquillo, ciao. Ecco, se volete rispondere alla domanda che ha fatto Umberto, potete scrivere a ifuoriposto@radio24.it. Oppure lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica che è 0246524182. Oppure WhatsApp, no? WhatsApp al 349-2386-666. Caro Umberto, anche oggi la puntata è terminata con questo bellissimo angolo fuori economia. Vabbè, Tostini a fa sta fuori economia. Però insomma, vabbè, se piace tanto. D'altronde poi insensatamente piace, no? Viene seguito Ciruzzo perché continuano a chiedergli dei consigli nonostante comunque, tutto. Comunque ci ritroviamo domani qui puntuali alle 10 su Radio 24, i Fuori Posto con Filippo Roma e Umberto Alezio. Ciao, a domani. Buon bagno, ciao.